finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. ...22:42 minuti primi, quasi puntuali, riduciamo di volta in volta il ritardo classico di 25 o'clock... Se vi ci ritrovate per caso, siete sintonizzati sulle 87.9 di Radio Onda Rossa. E questo è 25 o'clock. Dopo un paio di trasmissioni, un paio di puntate condotte in solitudine, è finalmente ritornato il professore, che corre il microfono. Eccolo. No, ma non è che ci tenevo poi tanto così a parlare, perché so per certo che hai supplito alla grande alla mia assenza, che quasi quasi entro in sciopero, diciamo. Ci risentiamo il prossimo. Nessuna polemica, ecco. No. Assolutamente. No, ma io invece apprezzo. Tanto se vai avanti, ma che c'è sto a fa qua? Vabbè, però ci rimango male, tutto questo spirito melodrammatico. No, va benissimo. No, invece è sempre un piacere in realtà tornare a proferire il verbo ai microfoni della radio, di Radio Onda Rossa, ricordiamolo, che è importante. E visto che ricordiamo che appunto siamo su Radio Onda Rossa, andiamo a ricordare i contatti. E poi vi presentiamo un personaggio. E non c'è nulla da presentare. Non c'è nulla da presentare. Il sito della radio è raggiungibile al www.ondarossa.info, sito attraverso il quale potete rimanere aggiornati con le notizie, le corrispondenze che vengono registrate nell'arco della giornata, i podcast delle trasmissioni. Radio Onda Rossa. E di rosso non c'è solo la radio, ma anche il conto. Radio libera dal 1977, senza padrini e senza padroni. E per continuare a sostenere questo progetto libero, potete contribuire appunto attraverso il sito della radio, andando a cliccare su Sostieni. Sarete indirizzati sulla pagina di PayPal, nonché troverete le coordinate per sottoscrivere nella maniera più classica. E quindi attraverso lo storico conto corrente postale, il 6180 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185, Roma San Lollo. E vi ricordiamo che attraverso il numero di telefono potete chiamarci in trasmissione. Lo 06 49 1750, 06 49 1750. Perché lo devo ripetere pure io? Insomma, significa che dovete rispondere all'appello e dire che siete all'ascolto, come ben sapete. E pure le mail, ricordiamo, che sono la 25@ondarossa.info o fantasma@ondarossa.info o l'email di redazione è ondarossa@ondarossa.info. E mentre trabordiamo qui, inzaccherando lo studio di Radio Onda Rossa, ma non vi diciamo come. E ripresentiamo, forse è più corretto dire, l'ospite di questa sera. Abbiamo qui ai microfoni di Radio Onda Rossa, direttamente da Garbatella Town, il Magna Tizers. Oh yeah! Però in una veste che non è quella abitudinale, cioè quella di disturbatore, di manipolatore di frequenze, manipolatore di suoni e cervellotiche e di fegati. Di fega, esatto. Ma abbiamo questa sera Magnatizer perché? Perché? Perché? Era doveroso rispondere all'appello del fantasma che mi ha detto: con la tua band di squagliati avete fatto un demo, venitecelo a far sentire. Certo. E giustamente non potevo esimermi dal presenziare. Ci sembra più che naturale, insomma. Assolutamente, peraltro è sempre un piacere enorme. Ma più che altro, più che presenziare, controllare, perché l'avremmo presentato noi e chissà in quale modo. Sicuramente il migliore. Sempre un enorme piacere essere qui a 25 o'clock in compagnia di queste amorevoli fisionomie dell'etere. Va bene, noi cominciamo a scaldare un po' l'ambiente con una traccia che ho preparato, una cosa nuova nuova, e poi ci presenterei questo progetto magnato. Un disco di qualche annetto fa, From 100 Celle, e loro sono i Klaxon. Arrivai di notte senza meta né via. Sotto un lampione quella scritta storta sul muro è 100 celle City Rockers. In quella grande periferia, la sera ubriaca uomna e via. Musica, birra, dance e pisto. Special, allora sì che ero fuori di me. Celle City Rockers, 100 celle City Rockers, 100 celle City Rockers. È il mio cuore che sente, e i miei occhi vedono, le mie braccia chiamano e stringono, 100 celle dentro di me. 100 celle stanno nel mio cuore, dentro di me. Celle è scritta una storia che rimarrà sorda su un muro fino a che non cadrà. Cento celle. Cento celle. Cento celle. Cento celle. E quindi Magnetizers, eccoci qua. Ci presenti il suo gruppo che risponde al nome di Chronic Hangover. Esattamente. Che tradotto, lo diciamo, postumi cronici. Una sbronza cronica. Sì, una sbronza che non ha mai a che passare, diciamo. Quindi un nome scelto a caso, immagino. Chiaramente, no? Sì, un nome assolutamente non biografico dei membri della band. Che invece cela una rigida invece disciplina straight edge, no? Chiaramente, noi siamo tutti votati allo straight edge da tantissimi anni, assolutamente, proprio non facciamo uso di alcuna sostanza, bevande, proprio nulla, assolutamente, cioè proprio ripudiamo l'uso di qualsiasi cosa che alteri l'organismo. E assolutamente, però. Poi ti conosco personalmente, neanche promuovi il bere altrui. Ma assolutamente, ma non sia mai proprio, cioè, lungi da me. Insomma, non ti conosce nessuno a Garbatella legato al mondo dell'alcol. Assolutamente, bro. Insomma, Chronic Hangover. Chronic Hangover nasce abbastanza per caso. Un annetto fa, no, più di un annetto fa più o meno. Dall'incontro, insomma, di personaggi abbastanza biechi. Che con una certa naturalezza il fato ha voluto congregare in un box abbastanza puzzolente, come ogni band, insomma, che si meriti questo nome comincia, insomma, dentro un box puzzolente. E così abbiamo fatto, e all'inizio, insomma, l'affiatamento è stato immediato a livello proprio personale. E da questo affiatamento immediato sono uscite fuori anche una serie di situazioni molto divertenti e della musica, sicuramente. Musica principalmente votata al sentimento di diniego. Di diniego. Proprio, voi immaginate quando vi svegliate dopo la peggiore sbornia che avete preso, e quello è il punto di partenza etico. L'entusiasmo che si ha nell'osservare il mondo al di fuori di noi e la vita stessa. Esattamente. Quando guardi il mondo da un oblò, diciamo, volendo citare, e quello è il punto di partenza etico della filosofia dei Chronic Hangover, diciamo, dalle migliori o peggiori sbornie che ci siamo presi, da lì nasce il sentimento che ci ha guidato nel comporre musica, diciamo. Quindi un punto di partenza, una base etico-etilica. Etico-etilica, sì. Ecco, appunto. Esattamente. Ma quindi cominciare a suonare così alle 13 del cioè le prove si fanno alle 13, quando uno si sveglia. Esatto, quando i postumi sono ancora vivi. Esatto. Ci si ritrova in saletta e si espletano tutte le funzioni post traumatiche del giorno precedente, diciamo. Poi durante le prove hai potuto verificare la capacità taumaturgica del... Beh, assolutamente, è stato empiricamente provato durante, insomma, le nostre session, cioè, di prove. Voi che suonate per sopravvivere a quello che è accaduto il giorno prima. A noi stessi, sì, noi per sopravvivere a noi stessi. Siete il vostro male più grande. Esatto, i nostri peggiori nemici. Insomma, cominciate a curarvi suonando. Sì, diciamo, la terapia iniziata un anno fa ha dato vita, insomma, a qualche canzone, e ultimamente siamo riusciti a pubblicare questo demo dopo una serie malgrado le sbronze. Esatto, infatti la gestazione è stata lunga proprio per quello, perché c'è stata necessità di stare un po' appresso ai ritmi di tutti quanti, insomma, certo. Ognuno col suo, per cui la gestazione del demo, sebbene siano solamente 3 tracce, però ha avuto più o meno, diciamo, l'impegno che serve per un parto trigemino, ecco. Sì, molte band, insomma, compongono i loro lavori con tutto il cuore, voi lo componete con tutto il fegato. Chiaramente, esatto, sì. Ne abbiamo anche perso una parte durante la composizione. Insomma, vabbè, dopo un po' di chiacchiere cominciamo a ascoltare qualcosa dei Chronic Hangover. Perché no? Ma questo demo, lo vogliamo dire come si intitola? Questo demo, allora, c'ha un titolo che in realtà, allora, possiamo dire il titolo e basta, o possiamo spiegare da dove nasce il titolo? Ci facciamo una cosa, idea una. Adesso diciamo come si chiama il titolo e dopo spieghiamo il... Lasciamo la suspense. Cioè, che radio, che atteggiamento radiofonico, vedi? Perfetto, perfetto. manteniamo alti i ritmi radiofonici e allora cominciamo a trasmettere le prime la prima traccia del demo, e il demo è logicamente "Il Signore ci punirà per questo". Questo è il titolo del nostro demo e poi vi spiegheremo anche il perché. C'è una ragione, chiaramente. C'è sempre. C'è sempre una colpevolezza, diciamo. E tu sei Satana. Tu, Diana. Tu sei Diana, la società che mi circonda. Tu sei la sporca truffa che avvilisce la mia vita. E non la mia soltanto. Rado tutto. Sono ancora assurdamente ubriaco di te. E così mi piaci, Robert. Ubriaco e mio. Positivi, mi sembra proprio un atteggiamento aperto rispetto alla vita e al futuro. Sì, ottimisti. Ottimisti. Vogliamo ricordare gli altri componenti dei Chronic Hangover? Assolutamente. Magari vuole salutare, eh? Assolutamente. Salutiamo tantissimo Fabrizio al basso, Salvo la batteria, Mattia la chitarra e io il Magnetizer mi occupo delle grida. Mi ricordavo, cioè, mi è venuto in mente così ascoltandoti un Alice Cooper sotto anfetamina. Beh, è sicuramente un complimento enorme, chiaramente. l'accostarmi ad Alice Cooper e all'anfetamina, insomma, è comunque sia un binomio notevole. No, vabbè, poi insomma, questo è proprio il tuo primo, la tua prima prova al microfono. Assolutamente. Alla veneranda età che non lo diciamo perché insomma, vabbè, e ti sei cimentato al microfono. Sì, per puro caso, devo dire, è nato tutto da un incontro alcolico. Chiaramente stavamo, anzi in realtà riguardo all'incontro in cui è nato i Chronic Hangover ci sono dei dubbi, perché dato che siamo tutti degli ubriaconi, ognuno si ricorda una versione diversa. Io mi ricordo Forte Prenestino all'interiore a Fest, altri si ricordano che era Air Traffic a un concerto non meglio identificato. Però in un momento di ubriachezza totale c'è stata, chissà, diciamo, poi se era effettivamente in questo spazio-tempo. Sì. Poteva essere pure in un altro luogo estraneo, esatto, a questo o universo, in una vita precedente, volendo. Oppure molteplici incontri contemporanei, insomma, che posso, ma chissà se suoni con loro poi realmente. Esatto, se è tutto un viaggio astrale in realtà. Vabbè, noi continuiamo ad ascoltarci il demo. Assolutamente, la prima traccia era Vituperio, sempre per l'ottimismo, comunque se no ci teniamo sempre a sottolineare l'ottimismo. E i testi li scrivi tu, Magnetizers? I testi li scrivo io, sì, non li prendo, sottolineo il fatto che non li prendo molto seriamente i testi, diciamola, okay, questa cosa. E sono comunque sia tutti i testi incentrati sul diniego, sul rifiuto della società, sulla presa a male, diciamo. Questo atteggiamento comunque estremamente floreale. Esattamente, chiaramente. E per cui, dato per rimanere sul floreale, continuiamo con Villa Triste. Perfetto. E ora, se credi ti possa essere bastato, voglio che mi accompagni fino in fondo alla Caina, dove l'uomo non è mai arrivato, dove c'è la disumana violenza e la rovina. No, qui latte non riesce a sostenere la metafora, l'immagine, il suono dell'abisso, perché il confine tu non lo puoi oltrepassare, perché laggiù l'uomo non è più un uomo, è crocifisso. We need your collaboration and raise any opposition. dunque, suoni zuzzi. Suoni zuzzi. Sporchi proprio di grasso, di diniego, di trasudo. Di trasudo, sì. Come quando ti ubriachi con l'amaro, che il giorno dopo c'hai la pelle glassata perché ha trasudato zuccheri. Più o meno la sensazione è quella. Tipo la glassa che si. Glassato. Esatto. Oh, e niente, avevamo anticipato. Sì, abbiamo sempre i giochetti con la suspense, capito? Adesso diciamo. Tu anticipi quello che con il tempo ci gioca. Sì. Tutto no, ma poi anche. Certo. Certo, sembra tutto così in errore. Invece sono tutte tempistiche radiofoniche. Abbiamo fatto un briefing di circa un'ora e mezza. Con le slide, insomma, esatto, dove si è rispettare questa tempistica radiofonica. E quindi, proprio come avevamo progettato, e questo è arrivato il punto, il momento. L'agnizione. L'agnizione. Allora. Ripetiamo il titolo. La suspense era tutta dal titolo, appunto, del nostro demo, che si chiama Logicamente il Signore ci punirà per questo. Ed ora quale Signore? Il Signore, il Dio cristiano. Okay. Proprio, ho capito. Inteso proprio, cioè, proprio Dio scritto con la maiuscola. Sì, proprio maiuscolo. Il barbuto. Signore maiuscolo. Esatto. Perché? Allora, partiamo da un presupposto. È una citazione. È una citazione di una signora affetta dal morbo di Alzheimer in stato abbastanza avanzato, che abitava la Garbatella sopra casa di un nostro amico. E dato che, insomma, c'era sempre gente che andava e veniva da casa di questo nostro amico, questa signora continuava a inveire dal piano di sopra, vedendo questo via vai di gente che a lei evidentemente, insomma, disturbava la sua tranquillità, la sua quotidianità. E lo insultava con, insomma, espressioni molto volgari, estremamente, e finiva sempre a suggello di questa sua pioggia di insulti e volgarità. Diceva: comunque sia, tanto il Signore ti punirà per questo. E diceva: logicamente, tanto il Signore ti punirà per questo. Quindi c'è una logica anche nella punizione. C'è una logica, cioè la punizione divina è logica, non è mai casuale. Ah, certo, abbiamo certo appreso. Dalla verità indotta da questa signora, che comunque sia c'è una logicità, una conseguenzialità nella per noi che abbiamo fatto poco catechismo, capito? Esatto. Per noi che non eravamo attenti diciamo a catechismo. Però, insomma, avete accettato con naturalezza questa verità, esatto, proferita dall'alto. Abbiamo preso atto della cosa e chiaramente, guardandoci allo specchio, noi quattro membri della band abbiamo capito che la nostra condotta di vita sicuramente sarebbe stata passibile presto o tardi di una punizione divina. Logica, perché era logica, insomma, in base a quello che facciamo nella nostra quotidianità, logicamente il Signore ci punirà per questo. C'è una conseguenzialità diretta e tutta razionale. Chiaramente. Quindi la fede è fatta anche di razionalità. E questa però convinzione si è estremamente rafforzata dopo che abbiamo composto queste canzoni cariche di negatività, disprezzo e... Quindi non solo avete preso atto di questa verità che vi giungeva, ma ne avete fatto... Ne abbiamo fatto una nostra virtù. Bandiera. Abbiamo fatto di necessità tipo, virtù. Ah sì? Ah, ok, va per bene. Per cui possiamo anche dire un pochetto ce la stiamo chiamando, diciamo. E poi dal momento che comunque c'è una logica e quindi anche un'inutilità della punizione, esatto, è tanto vale, come era la storia pure che ci dava sempre Paolino: io speriamo che quando moro vado all'inferno perché stanno tutti amici mia. Esatto, quantomeno c'ho una bella compagnia, diciamo. E per cui, dato che la punizione divina è lenta e inesorabile, chiaramente abbiamo preso atto di questa cosa e a suggello dei nostri lavori malefici abbiamo voluto porre questo titolo, che sicuramente calza bene. E quindi ci andiamo ad ascoltare un'altra perla da questo lavoro diabolico. L'ultima perla, che è quella in effetti realmente un pochino più happy a livello quantomeno tematico, perché il titolo è Lucifer in the Sky with Diamonds. Per cui comunque sia c'è quantomeno un'apertura floreale, quantomeno nella una lirica. Citazione beat, una insomma, citazione, esatto, degli anni 60, in cui si intravede qualche si florealità, intravede, diciamo. Solo che c'è un fer di troppo. Esattamente. E Lucifer in the Sky with Diamonds, questo è 25 O'Clock e loro sono i Chronic Hangover. Thank you. questa era l'ultima traccia del demo dei Chronic Hangover, registrato da poco. Registrato, sì, quest'estate. È uscito adesso il demo. Ce l'ha registrato Fulvio, un nostro caro amico che saluto tantissimo, che ha fatto un bel lavoro sui suoni, ci ha messo insomma un bel impegno, è stato anche divertente registrare con lui, per cui ci tengo molto a salutarlo. E già avete cominciato a suonare nei mesi scorsi? Abbiamo, no? Fatto qualcosa, sì, abbiamo fatto qualche data al Closer, una data al Latina con i Misanthropus, all'Ariel Fest insieme anche ad altre band fantastiche. È stata un'esperienza veramente notevole e devo dire che principalmente ci siamo sempre divertiti moltissimo, oltre che ubriacati moltissimo. Strano. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Diciamo, un'esperienza nuova proprio. Vabbè, insomma, continuerete pure. Assolutamente, sì, ad ottobre abbiamo un live con i Dark Waterer e i Graal. Dark Waterer. Cui, esatto, bene. Quello sarà, devo dire, un evento che ci siamo presi abbastanza a cuore, perché Dark Waterer, Graal, che insomma, vabbè, nella sì, forse che vabbè, underground metal romano sono delle istituzioni. Beh, no? Sì, decisamente. Insomma, poi Dark Waterer nello specifico stanno facendo il tour del 25ennale del loro primo album, per cui sicuramente riproporranno molto materiale anche bello antico, per cui sarà insomma sicuramente una serata molto interessante, una serata in cui ci sarà della bella musica, a parte noi che sicuramente insomma faremo la figura, vabbè, dei tossici come, vabbè, al solito. Però insomma continuate insomma a voler guadagnare questa punizione divina. Chiaramente sì, ce la stiamo chiamando in ogni modo possibile proprio. Va bene, quindi avremo tempo e modo di ricordare insomma. Assolutamente. I prossimi noi concerti. Continueremo ad assumere uno stile di vita più negativo possibile, di modo che la punizione sarà sempre più logica e inesorabile proprio. E contatti contatti per gruppo, anche per chi vuole sapere come fare a vivere nel peccato, vi può chiedere. Esatto, il breviario del su peccatore. Come sopravvivere ai peccati mortali. Allora, abbiamo una pagina Facebook, non ci siamo spinti oltre, diciamo. Abbiamo una pagina Facebook, per cui se cercate su Facebook Chronic Hangover chiaramente vi esce fuori. E abbiamo cominciato anche a mettere il nostro demo sulle piattaforme, per cui totalmente scaricabile. Sì, scaricabile, ascoltabile in streaming gratuitamente, assolutamente. E per chi proprio ha il vezzo del collezionismo, facciamo anche il demo in edizione su cassetta. Alla vecchia maniera, sì. Mi sono preso personalmente carico di questa. Ma con questa le grafiche e tutto quanto? Sì, oppure la cassettina sì, scritta sì, a penna, no, che pure è gagliarda. Con grafica e quant'altro, proprio. Demo su mixtape. Per cui chi volesse, chi è preso da feticismi di mixtape e vuole ordinarlo, ci manda. Perché c'è un po' ultimamente il revival di tutto. Di tutto, e tra l'altro tra cui questo riemergere della cassetta, tanto che devo dire è un formato a cui io personalmente sono molto affezionato, devo dire, ma ha sempre dato grandi soddisfazioni, soprattutto perché mi ricorda quando da pischelletto facevo i mixtape per l'appunto, e stavi lì che perdevi quelle tre ore del tuo pomeriggio, le compilation fatte appresso allo stereo, pausa, play, pausa, rec, pausa, insomma, play, quella per la macchina, la cassetta compilazione va per la macchina, quella va fidanzata, no? Certo, chiaramente per la fidanzata era sempre la cassettina con le ballad, chiaramente, certo. Chi non l'ha fatta, beh, insomma, finalizzata sempre a fini biechi per i quali il signore ci punirà, chiaramente. Certo. Vabbè, quindi fornirete anche l'immancabile bic per riavvolgere il nastro. Chiaramente, quella si è non si trovano più. Quello è il problema delle cassette. Non è tanto il lettore, si trova. Sono la scomparsa della deck, sì, la scomparsa della bic classica, che sì, col profilo esagonale. Era fatta per quello. Certo. Ma chi lo sa? Vabbè. Ma sicuramente il revival ci donerà anche delle nuove bic esagonali con cui riavvolgere i nostri nastri. Che puzzano di alcol. Chiaramente intrisi, il gadget. con i nostri ospiti ci piace un po' che anche si raccontino attraverso quello che loro portano, le loro selezioni però musicali. Non è una novità per Magnetizer. Per il Magnetizer non è una novità, insomma, però è. Insomma, però ce lo facciamo fa uguale. Cioè, non è che ci devono essere sempre le novità 25 o'clock, eh? No. Anche perché poi, cioè, come fai? Cioè, non è possibile. A un certo punto vai nel... Allora, come da tradizione? Nemmeno, no. Nemmeno perché la tradizione ci fa cagare. Ci fa cagare. Quindi, come da consuetudine, non ci piace... Diciamo che il Magnetizer ci ha messo del suo, anche stavolta. Il Magnetizer ci ha messo del suo, anche stavolta. E per cui non sono arrivato sguarnito, insomma. Oltre al demo dei Chronic Hangover, chiaramente ho cercato di portare del mio, insomma, qualche vibrazione malevola. E quindi la prima selezione che ci propone i Magnetizers? Allora, è un brano che è incluso in una compilation che è uscita per Classic Rock, dove praticamente Lemmy sceglie tutta una serie di tracce rock and roll per comporre questa compilation. All'interno di questa compilation ci sono anche alcuni dei brani degli Headcat, che sono un progetto che Lemmy fece nei primi anni 2000, se non ricordo bene, e dove reinterpretava una serie di brani rock and roll con altri artisti, insomma, non con i Motorhead. E da questa compilation ho voluto ripescare Peggy Sue Got Married, che è un brano rock and roll totalmente happy, totalmente in contrasto con i Chronic Hangover, con tutto il sound che avete sentito finora, perché ritorniamo proprio sul rock and roll più classico e più totalmente happy. Quindi in contrasto musicalmente con quello che abbiamo sentito con i Chronic Hangover, però in linea per quanto riguarda le punizioni divine, perché Lemmy logicamente forse è il più grande sopravvissuto della storia del rock. Sì, forse lui veramente l'esempio che la punizione divina non è arrivata alla fine. E questo è Lemmy. How's it fucking start? One, two, three. Understand. Do you recall a girl that's been invece ci è arrivato qui in radio Corriendo, Corriendo, un lavoro dalla Svizzera. Loro sono i Denner Clan. Questo è dal loro lavoro San Bernardino. Questa è la sesta traccia, Delinquente. Ce la riascoltiamo da capo. Corriendo, corriendo, que la justicia siempre estás huyendo, corriendo, y lo promotor te agarrarán, y tras las selvas estarán, y muchos años durarán, pues el delito como hiciste. Erano i Denner Clan della Svizzera dopo aver ascoltato i Blue Oster Cult con una cover, la rivisitazione di Kick Out the Jams, gli MC5, possibilmente più sparata possibile, ancora di più degli MC5. Infatti quando ho sentito questa cover sono rimasto di stucco per la violenza con dell'esecuzione proprio. E quindi con il karma del Magna Tizers qui ci lasciamo trasportare e andiamo a braccio e ci vengono le cose in mente. E chi ci ascoltiamo adesso? Avevo suggerito gli Spindrift, che sono una band molto particolare, perché sentendo questi ritmi di Delinquente dei San Bernardino mi è venuto in mente comunque sia uno scenario spaghetti western abbastanza spinto, e per cui mi vengono in mente gli Spindrift, che sono una band dedita comunque sia a un continuo interminabile tributo a Ennio Morricone. Sono stati anche loro autori di una colonna sonora di uno western moderno che si chiama The Legend of God's Gun, e dalla loro discografia ho voluto ripescare Speak to the Wind, una traccia molto western, spaghetti western nello specifico, con un incedere anche abbastanza doom, volendo. Ah, sì. Beh, nello spaghetti western c'è molto Doom, diciamo. C'è decadenza. Quei grandi silenzi. E poi essenzialmente ci si addice molto, perché è quello che facciamo più o meno noi, parliamo al vento. All'etere volendo. Mm. Sì, no, comunque. E questa allora possiamo dedicare a tutti quelli che parlano al vento, all'etere, o si parlano addosso. 0649 1750, per dimostrare che non stiamo parlando soltanto al vento. E loro sono gli Spin Drift. E questi erano gli Spin Drift, Speak to the Wind. E a proposito di vento, mi è venuta in mente questa traccia dei Misanthropus provenienti dall'Agropontino, che un po' potrebbe ricordare alcuni scenari dei film di Sergio Leone. Penso che nella, cioè, so per certo, perché stiamo facendo una ricerca, che alcuni dei essenzialmente la biologia, se lo chiamavano Trinità, continuano a chiamarlo Trinità, sono state girate delle scene da Aprilia. Vedi? Vedi che tutto torna. Vedi che tutto torna. C'è un filo conduttore. Beh, io diciamo dal canto mio posso dire che nelle mie ampie frequentazioni nella zona di Latina e dintorni, soprattutto nell'Agropontino, nell'Emiliare, ho sempre visto degli scenari che mi ricordavano un po' un Tom Sawyer, proprio, no? Questi canali con eucalipti e campi di Gran Turco. Ma hanno sempre, ecco, dato un po' quel senso di Tom Sawyer, diciamo. E quindi tra questi scenari si è creato il sound dei Misanthropus, qui da un lavoro del 2000 ristampato di recente su CD. Eh sì, perché per anni i Misanthropus hanno pubblicato i loro lavori unicamente su vinile. Quindi dal disco del 2000 questa è Wind, vento. Ci abbiamo pronto. Ci sono? O salto? Io no. E ci abbiamo già pronto sul lettore di sinistra un altro brano che ci propone il Magna Risers. Un classico. Un classico. Loro sono gli Atomic Rooster. Questo è un brano che mi preme particolarmente. Gli Atomic Rooster già in sé per sé sono fantastici. Hanno partorito musica molto variegata peraltro nel corso del tempo e hanno fatto cose incredibili, però c'è questa traccia che magari le persone meno attente potrebbero aver sentito in veste di cover senza saperlo, perché è stata fatta la cover dei Death Sess di questa canzone e pure dei Paradise Lost, se non me, addirittura se non me sbaglio, sì. Vedi, non sì, si sì, smette sì, mai sì. di imparare. E questo è un brano immortale, diciamo, che per tutte le persone che amano determinate sonorità legate agli anni 70 però impregnate di oscurità, questo è proprio il capolavoro e il classico immortale. Certo, perché non si parlava solamente di fiori e cose belle, gli acidi non prendevano sempre bene, diciamo. Prendevano anche a male. E quindi è stata creata questa canzone dal titolo emblematico Death Walls Behind You, la morte che sta dietro. E loro sono gli Atomic Rooster e questa è 25 O'Clock e questa è Storia. Thank you. Insomma, questi erano gli Atomic Rooster, che già con queste tematiche andavano un po' inconsapevolmente a contribuire a seminare. A seminare il in tempi estremamente non sospetti perché poi insomma questa canzone è del 70. Peraltro stavo leggendo una nota su Wikipedia, sulla pagina di Atomic Rooster, veramente fantastica, che recita, vabbè, chiaramente ricordiamo la partecipazione di Carl Palmer all'interno degli Atomic Rooster. All'interno della loro biografia c'è questa nota che mi fa molto sorridere, che dice: nel 1975, durante una tournée degli Atomic Rooster in Italia, Vincent Crane si defila con la cassa piantando in asso tutti gli altri. Beh, e questo si va a ricollegare a un discorso che stavo facendo con degli amici questo weekend, che alle band straniere le tournée in Italia gli fanno male. E abbiamo tantissime testimonianze di questo tipo, a parte un Kurt Cobain, insomma, a Roma, che ha fatto quello che ha fatto. Un concerto dei Monster Magnet a Roma, in cui veramente l'abuso di droghe da parte della band ha stroncato il resto della tournée. Perché non lo sapevo che era in quel di Roma. In quel di Roma nel 2004, mi pare, all'Horus, i Monster Magnet fecero un concerto in cui dei Weindorf Get Too Much, assolutamente. Il concerto fu incredibile, uno dei più belli che abbia mai visto nella mia vita, però il resto del tour è stato stroncato perché lui stava troppo fatto, assolutamente. Lui come, insomma, cioè, se andiamo a rivangare, ce ne stanno tante di storie finite male di tournée che sono arrivate in Italia. Beh, e in particolare a Roma. Che poi a Roma. Non sapevo che era per questa data romana. Però, cioè, ricordo che ci ha messo del tempo per riprendersi dei Widorf. Beh sì, la data romana l'ha segnato, perché sicuramente le date successive furono cancellate, poi con una scusa blanda, però chiaramente chi era al concerto di Roma si ricorda esattamente qual era il motivo. Loro, come anche i Nebula a Palestrina, che ebbero un concerto disastro dato da abuso di droghe pesante, piuttosto che... No vabbè, nel nome del rock ha segnato molte vite. Piuttosto che, mi ricordo il concerto dei Type O Negative dell'ultimo tour che hanno fatto, che era il Gods of Metal, in cui loro stavano ubriachi di vino a livelli proprio imbarazzanti e traspariva proprio dalla performance. Per cui questa cosa mi fa, questa nota aggiunta dalla biografia degli Atomic Rooster mi fa molto sorridere, perché aggiunge un tassello al mio puzzle mentale delle tournée distrutte dalle calate italiane. Però insomma non c'era tanto un abuso di droghe, ma o di alcoli, ma per una premeditazione, diciamo, abbastanza, esatto, qualcosa da logicamente, quel logicamente che torna. Sì sì, per cui abbiamo capito, band estere, attenzione quando suonate in Italia, state buoni perché vi fa male. Se vi lasciate andare vi fa male. Vi lasciate trasportare, insomma, da cotante energia. E da cotante energia. E sabato scorso siamo andati a presenziare, a partecipare al Paliano Hardcore Fest, la terza edizione di questo festival hardcore. Costruito dalla 1% Crew. E quindi volevo salutare la 1% Crew, i Social Trauma, Fabio e tutti quanti, perché è stato veramente figo. Un'atmosfera positiva, dove orche assassine gonfiabili volavano nel pogo. E durante questo festival ho trovato sul banchetto questa compilation creata da Tusha Clan, che è appunto costruito nella Tusha, un vinile più CD con band appartenenti all'area di Viterbo. O il vinile è, vabbè, cioè a mia memoria raramente ho visto delle vesti grafiche così ben curate, insomma vabbè, un'anticipazione in un futuro prossimo andremo a presentare questo lavoro con chi appunto ha contribuito a crearlo. E noi, prima di lasciare baracca e burattini al professore, ci ascoltiamo appunto da questa compilation costruita nella Tuscia, e la quarta traccia quindi dei Razzaparte, questa è la loro Chaos ed è in dialetto viterbese. Quindi eccoci, Onda Rossa, un saluto ad Alessandro, ci teneva sempre a marcia indietro. Non ve lo facciamo sentire questa roba qua, perché appunto questa compilazione sarà invece appunto compito di un'altra serata qui in radio a Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale 06 491 7 50. 25 o'clock ai controlli quando sono le 004 minuti, quindi in piena 25esima ora. E siccome qui l'abbiamo fatto capire più o meno, ci riteniamo, non abbiamo detto che siamo, ma ci riteniamo brutti, sporchi e cattivi. Torniamo al 1950 e qualcosa. 50 e avanti, insomma, verso la fine degli anni 50. Tanto così per identificare bene chi siamo noi. Scuri, scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri, noi duri. Le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne, che donne. Con l'abito rigato, la pistola nel gilet, ad ogni partita rischiamo la vita, chi vuole un po' di rogna su due piedi se l'avrà. Ecco, ecco noi duri, che in fondo siamo dei puri, ne facciamo un po' di tutti i colori, noi duri. Sempre fuori, scivolando lungo vicoli scuri, torniamo da mamma, che a nanna ci metterà, noi duri. Per ricordare che stiamo a Onda Rossa 87.9. Per ricordare che ci sta un master e ci sta uno slave. Anche se questi qui non hanno più una faccia proprio precisa, identificata, ma si chiamano manager. Ufficialmente sono degli stipendiati. Ufficialmente si sono nascosti. La proprietà è una società per azioni. Ma c'è sempre un master e ci sta uno slave.

d'Euskadierria. Magnetizer, logicamente il signore ci punirà per questo, chiaramente. '80 a Milano, Chaos Rock. Basta, basta. A Radio Onda Rossa 25 o'clock e ora sentite un attimo questo riff qua. E non manchiamo mai di dirlo, loro lo chiamavano rock demenziale, in realtà era assolutamente punk rock. Da capo, risentiamo il riff iniziale. È didascalico, è didattico. Io me la meno, ogni notte mi dimeno domani, prendo il treno, vado fino a Sanremo. Io me la meno. impazzisco, mi sveno, non posso farne a meno. Io me la meno, io me la meno. Con un pieno di fieno io divento più scemo. La vecchiaia non temo perché io me la meno. Proprio una bestia. 1 minuto e 51 per Roberto Friccantoni, recentemente scomparso. RIP. Per 1 minuto e appunto 51 secondi tiratissimi. E vabbè, attraversiamo l'oceano come si fa spesso da queste parti. Ce ne andiamo in California, dove c'erano degli sporchissimi Bad Religion delle origini. E lo chiamavano pure melodico, eh. Comunque, da capo. E dato che è notte, Bad Religion in the night. dato che passiamo appunto da una parte all'altra dell'oceano, il Magnetizer, oltre che peccare ovviamente, fa il lavoro suo, cioè quello di andare a infilare la pulce nell'orecchio e smucino sul fondo del barile, chiaramente, e mescoli nel torbido. Quindi che cosa siamo andati a ripescare? Beh, è un album che mi è stato consegnato a mano da uno dei musicisti e nell'era ovviamente di Facebook, nell'era della, esatto, condivisione mediatica, un musicista è venuto e mi ha consegnato a mano questo album. Io l'ho inserito nel lettore e devo dire che è un album fighissimo dall'inizio alla fine. Peraltro loro sono romani e questo ci crea un grosso moto di orgoglio, diciamo, perché possiamo dire che finalmente nel panorama romano è nato una nuova band, Psychobilly, sicuramente. Che non è che ce ne stanno proprio, esatto, dato che il panorama non è che è così, così florido, ricco, esatto. Possiamo annoverare una band Psychobilly veramente valida nel panorama romano, e loro sono i Cockroaches, da cui abbiamo tratto dal loro lavoro che si chiama Stomp Around the Tombs. Stomp Around the Tombs e Daba da badu. Daba da badu. Onda Rosso 87,9 della modulazione di frequenza, le atmosfere sono assolutamente di etica etilica, come dicevamo poc'anzi, per cui si va avanti e passiamo ad una band che viene dal paese del bere molto. E loro si chiamano Blood or Whiskey. Vedi un po' te qual è la scelta migliore. Jarred for Life. Yeah. tutto iniziò a metà degli anni 80 o giù di lì, quando si interrompe così, quando un signore di nome Sean McGowan, che bazzicava per Londra, ovviamente non era inglese, ma di una terra lì vicina, di un'isola che fu colonizzata 3 o 4 secoli fa, insomma, cominciò a suonare in questi pub fumosi la musica tradizionale dei suoi luoghi, però con un'attitudine che assomigliava molto ai Sex Pistols o ai Clash. E uscirono fuori i Pogues. Pogues che influenzarono tutta una scena che è arrivata fino ad oggi. E quindi dal loro primo lavoro del 1984, appunto, ce ne vanno ad ascoltare Down in the Ground, Where the Dead Men Go, che appunto è una ballad ma fatta alla loro maniera. جد الولد فلسطيننا جينا جايين والعز انولد يا قدسنا جينا حنا الشعب المديني جايينك يا فلسطين حنا الشعب المديني جايينك يا فلسطين Allora, mentre rimandiamo da capo Generation, c'era ancora un intervento da apostrofare. Vai. Eccoci qua. Io sentendo il pezzo dei Pogues mi sono illuminato di immenso, diciamo, perché a parte proprio l'apprezzare proprio la scelta musicale fantastica. Proprio parlando dei Pogues, io ho un'amica molto più grande di me, un personaggio veramente fantastico, di quelli che si sono presi gli anni 60 in piena fronte proprio, che si è innamorata negli ultimi anni dei Pogues e del cantante Shame, che da lei ma è stato risposta oppure no, è, no. Cioè, un amore proprio nel senso un'ammirazione sì. Proprio viscerale, artistica, diciamo. Okay. Lei l'ha ribattezzato Shame perché in effetti è un altro tipo che beve pochissimo. Esatto, perché chiunque può, insomma, guardare un po' di video suoi su YouTube. Shame è assolutamente quasi astemio. Una persona sobria, diciamo. Sobria. E chiunque vede video che lo riguardano su YouTube riesce, insomma, a capire esattamente per quale motivo viene chiamato Shame dalla mia amica, perché, diciamo, la vergogna della società è incarnata proprio nelle sue azioni, proprio. E qui lancio un appello ecumenico proprio. Una volta vidi a casa di questa mia amica un video dei Pogues in cui il cantante veniva portato sul palco perché eccessivamente ubriaco sulla sedia a rotelle, perché non ce la faceva stare in piedi, perché lui entra sulla sedia a rotelle come al solito col drink e la sigaretta, certo. Spinto sul palco sulla sedia a rotelle con drink e sigaretta, accenna le prime strofe della canzone e poi vomita sulla prima fila del pubblico direttamente dalla sedia a rotelle perché non gliela faceva più. E da qui il mio appello ecumenico. Io non riesco più a ritrovare questo video su YouTube. Chiunque l'hanno tolto, perché anche YouTube, sai, c'è una censura, anche che molte il suo volte diciamo, che molte volte è una censura di tipo appunto legislativo commerciale, per cui se uno pubblica delle cose diciamo protette da copyright oppure troppo estreme succede in anche caso. Una polizia, però diciamo io, però, insomma, erano vomitata, dai, tutto sommato, cioè ci stanno, può capitare anche su nelle YouTube, migliori famiglie, cioè, diciamo, con le guerre, sì, che sì, ci stanno oggi, e stanno morti ammazzati, sangue dappertutto, ha voglia a vomitare, insomma, una vomitata. Per cui diciamo, ecco, il mio grandissimo crucio è che non riesco più a trovare questo video su YouTube. Ma molte volte, sai, dipende dalla parola chiave che metti. Chiaramente, esatto, per cui questo è il mio appello ecumenico a tutti e tutte. Chi lo trova, aiutateci a trovare la sbrattata, esatto, fantasma @ghiacciolondorossa.info, 25@ghiacciolondorossa.info, vi prego, oggetto sbrattata, notificatecelo. Allora, dopo questo appello importante e doveroso, invece andiamo ad ascoltare un disco uscito nel 2014. Loro vengono dal Sahel, dal Mali per l'esattezza. Si chiamano Tinari Wen e suonano da un sacco di anni, ma noi li scopriamo solo oggi. E andiamo ad ascoltare Tamalot o qualcosa del genere. Ibrahim Ag Alabib è il nome del musicista che ha animato questo progetto che dicevamo dura da molti anni. Questa è la loro ultima uscita, questo disco, questo nuovo lavoro. Che nel loro stile unisce appunto le sonorità della terra berbera, delle terre berbere, desertiche. Tinariwen significa appunto nella lingua berbera deserti, il plurale della più celebre tenere. Avremo modo di ascoltarlo pian piano nelle puntate che seguiranno di 25 O'Clock, quando si avvicina appunto quest'ora più tarda della notte, quando le sonorità si fanno più calde. Noi andiamo a concludere con un ultimo disco, anche questo del 2014, che si chiama Enter. Questa è una super band di free jazz che viene dalla Svezia, un progetto di tre musicisti che hanno messo insieme appunto una grossa ensemble, come si dice, dai. Che si chiama appunto Fire Orchestra. Perché è proprio il fuoco quello che esce fuori da questo progetto sperimentale. Sono veramente tantissimi quelli che ci sono dentro. La voce di Marian Wallettin è sicuramente in estrema evidenza nella prima traccia di queste quattro tracce di questo lavoro, che appunto, ripetiamo, si chiama Enter. Un po' meno fantasia nella titolazione delle varie tracce. La prima traccia si chiama Enter Part 1. Noi la mandiamo, poi saluti finali. E per ora vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 25 O'Clock, 87.9 della modulazione di frequenza, 06 49 17 50, il contatto telefonico, dai. cause you see there's nothing that we can hold, nothing we can control. Still want to keep it a private secret, to whisper only into the branches of old oaks, into the mouth of frogs, into the sullen ground, oh, into the mist that flows around, straight into all black holes that was ever made, and make the black turn green, and the green turn brown, and then the brown. So that the whisper goes silent and everything stops. To start over and over and over and over and over and over and over and over and over again. Oh, and so it goes and turns and freeze and burns. Questa era la voce di Marian Valentine, o Valentin, non sappiamo esattamente nel gergo scandinavo come pronunciare, una delle tre cantanti della band messa su da Matt Gustafsson, John Bertling e Andreas Werlin. Quindi secondo disco per Fire, Orchestra, dopo il loro Exist, due tracce di un paio d'anni fa, del 2011-2012, questo Enter. Con questo l'1.04 noi andiamo rapidamente a concludere. Non prima però di raccontarvi che domani, dopo la pausa estiva, riaprono i tribunali e riprendono tra gli altri due importanti processi nei confronti del movimento NoTav, il maxi processo che vede coinvolti 53 imputati accusati di aver resistito allo sgombero della Maddalena il 27 giugno 2011 e averla assediata il 3 luglio del 2011, e il processo contro Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò con l'accusa di terrorismo. Entrambi i processi si avvicinano alla sentenza del primo grado e questa è sicuramente l'occasione per rinsaldare con ancora di più determinazione la solidarietà intorno ai compagni e le compagne sotto processo, dentro e fuori le aule di tribunale. La lotta contro il TAV è certo, non è certo confinabile a materie da codice penale, per questo vogliamo tornare in occasione della ripresa delle udienze del processo nei confronti di Chiara, Claudia, Mattia e Niccolò, prevista per il 18 settembre, a essere di nuovo al loro fianco nell'aula bunker alle 9, per portarci poi in Vianizza, dove ha sede l'ETF, per pranzare insieme e aprire una discussione su idee pratiche da mettere in campo in vista delle prossime sentenze. Questa è una comunicazione a cura di una firma che ci piace molto vedere in questa forma e che appunto fa ridere tutto il panegirico e tutte le invenzioni che vengono fatte circa la supposta divisione o ormai scollatezza del movimento NoTav. La firma di questa comunicazione è movimento NoTav, punto. Quindi domani la radio terrà conto di questa vicenda e farà corrispondenze in tal senso. Domani è sempre il 18, cioè domani, oggi veramente è il 18 di settembre del 2014 e ricorre un anno dalla scomparsa di Killa P, Paolo Saffissa. E quindi lo vogliamo ricordare sempre, lo farà sicuramente il compagno che ci ha testé chiamato. Nella trasmissione hip hop del venerdì pomeriggio, quella che non c'è niente la venne. Lo salutiamo sempre per la sua estrema correttezza, Sì, un saluto sentito al calorato. Si ricorda di noi ogni tanto. Sì, chiama per insultare. Per riprenderci. Grazie, banana. Banana, per quanto fai per noi. Vi invitiamo a restare all'ascolto delle frequenze di Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa che vi lascia in compagnia della compagnia automatica Zara da adesso fino a domattina alle 8, quando riprenderà la consueta programmazione della radio con la rassegna stampa preceduta dalla lettura delle prime pagine dei giornali. Poi la rassegna stampa cittadina, le nazionali dalla città e appunto da fuori città. Ah, il 16, cioè ieri, mi sa, oggi, boh, non lo so, usciva il disco dei Shellac, mi ero dimenticato di dirlo, dopo 7 anni. Noi la prossima puntata vi faremo sentire quello di 7 anni fa. Quindi a risentirci, non so se volete, senz'altro, no, salutare gli ultimi rimasti all'ascolto. Ma gli ultimi rimasti saranno sempre i primi, per cui sono comunque sia i primi ad essere salutati. E comunque noi ci ricordiamo che logicamente il Signore ci punirà per questo. E detto questo, un saluto a tutti i People of the Night, tutte e tutte, chiunque voi siate, ovunque voi siate, ovunque in qualsiasi modo ci seguiate. Quindi Children of the Night and Earth, ci risentiamo mercoledì prossimo per una nuova fiammante, scintillante puntata di 25 o'clock. Bella.